Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante e il traghettatore, ben trovati. Parliamo delle piccole e medie imprese di cui tanto si vocifera, su cui tanto si punta nel nostro paese, e vogliamo sottolineare un aspetto assolutamente interessante e significativo per Ferriboat. Il 33% di queste piccole imprese negli ultimi 2 anni ha utilizzato tecnologie e sistemi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale. È un dato assolutamente significativo. Se poi volete saperne di più, vi specifico che è proprio il centro dove si raggiunge la maggiore percentuale, quasi il 36%, ed è il nord-est invece dove questa percentuale si abbassa, ma poco importa. È più interessante invece di sottolineare che il 30% di queste aziende ha dichiarato che vuole continuare questo filone, quindi nei prossimi 2 anni aumenterà l'investimento per la riduzione dell'impatto ambientale. Addirittura quasi il 50% ha intenzione di installare pannelli fotovoltaici. È un'indagine di Fondazione Impresa fatta su 600 piccole imprese, che vuol dire aziende con meno di 20 addetti in Italia. Divento Grande è una onlus che è stata fondata da padri, dai papà, che hanno un obiettivo. Ne parliamo con Bruno Morabito, che è il presidente di questa onlus. Buongiorno Bruno Morabito. Buongiorno. L'obiettivo è lavorare, raccogliere fondi per lavorare, contribuire alla soluzione dei problemi degli adolescenti autistici. Definiamo adolescenti autistici. Sì, diciamo che il problema autismo emerge intorno ai 2 anni e mezzo, 3 anni di età. Da quel momento in poi ci sono una serie di manifestazioni che un occhio attento sa individuare, sa osservare e catalogare in maniera adeguata. Questo a volte non è sempre semplice, non sono molti gli insegnanti in grado di individuare questo tipo di disagio, dei segni. Ed è importante, vero, perché prenderli per tempo può essere fondamentale. Che cosa vuol dire, presidente, autistico? Che vita è quella di un bambino autistico? È un bambino molto chiuso in se stesso, che ha difficoltà a relazionarsi con gli altri, ha difficoltà ad esprimersi. E quindi ad apprendere anche. Ha un contatto, diciamo, oculare scarso. Difficile. Con l'interlocutore. Grosse difficoltà, immaginiamo, anche di apprendimento e di crescita, quindi sì, in generale. Sì, deve essere seguito assolutamente. Ecco. Voi chiedete di donare 1 euro, fra l'altro un'iniziativa che vale per oggi fino a domani. Il termine scade a mezzanotte di domani. Chiedete 1 euro inviando un sms al 45599. Con questi soldi che cosa pensate di fare? Realizziamo progetti che stimolino questi ragazzini da un punto di vista psicologico e comportamentale, che gli aiutino, diciamo, a crescere nel corso degli anni dell'adolescenza, nei quali sono un pochettino abbandonati dalle istituzioni e dal sistema sanitario, immaginiamo, anche. Esatto, per via di tagli e per via di carenze. E purtroppo sono seguiti fino più o meno all'età delle scuole medie, e dopodiché sono un pochettino lasciati alle famiglie, e le famiglie devono un po' arrangiarsi autonomamente. Quello che facciamo noi è intervenire in supporto delle famiglie, realizzare attività che li stimolino da un punto di vista psicologico-comportamentale, soprattutto attività sportive, ricreative, terapeutiche. Socializzazione. Un'ultima battuta, presidente Morabito: sono tante le famiglie che hanno questo problema in Italia? Sì, sono assolutamente tantissime, e con il perfezionarsi dei sistemi di osservazione del fenomeno si stanno scoprendo sempre più numerose queste realtà. Quindi c'è assolutamente bisogno di intervenire e di darci una mano, contribuire per esempio a questa causa. Bene. E donare 1 euro con il 45599. 45599 fino a domani, vi ricordo. Grazie. Al presidente Morabito. Grazie. Noi andiamo avanti. Da domani e fino al 10 settembre Genova diventa protagonista del Festival dell'Acqua, che culmina in una notte bianca il 10 settembre. Sono 30 eventi, c'è perfino la staffetta dell'acqua, 120 relatori, 6 libri dedicati e anche lezioni magistrali importanti su aspetti davvero singolari: acqua e filosofia, per esempio, acqua e legalità, acqua e pace, acqua e sacro. È tutto per questa puntata di Ferriboat. Vi ricordo che all'indirizzo ferriboat@radio24.it potete segnalare le vostre iniziative. Grazie alla redazione di Anita Panizza e alla regia di Carmelo Dauricella. Alla prossima.